362. Scaloppe di lingua farcite in Bella Vista. Fra i rifreddi, questo è uno dei migliori e di bella apparenza. Fatevi tagliare dal vostro salumaio 10 fettine di lingua salata nella parte più grossa, il cui peso in tutto riesca a grammi 130 circa. Fatevi anche tagliare in fette sottili grammi 100 di prosciutto cotto grasso e magro. Tagliate giro giro i bordi della lingua per dare alle fette una forma elegante e i ritagli metteteli da parte. Poi levate dal prosciutto 10 fettine della dimensione di quelle della lingua e i ritagli, tanto del prosciutto che della lingua, gettateli nel mortaio con grammi 70 di burro e grammi 20 di un tartufo bianco e odoroso. Pestate queste cose insieme per ridurle fini come un unguento, di cui vi servirete per rispalmare le fette della lingua da una sola parte ed appiccicatevi sopra le fettine del prosciutto. Ora che avete così composto questi 10 pezzi, vi danno tutto il tempo che volete per metterli in gelatina. Questa è descritta nella ricetta numero 3 e può bastare quella dose, ma 2 sono le maniere per adornar con essa i pezzi suddetti. La prima consiste nel prendere un largo piatto o una teglia, versarvi un leggero strato di gelatina sciolta e quando comincia a condensare, collocarvi sopra i pezzi e questi coprirli con un altro strato di gelatina sciolta per levarli dopo a uno allorché essa sia assodata. La seconda sarebbe di collocare i pezzi ritti in uno stampo a qualche distanza tra loro. Dopo aver circolato in fondo un leggero strato di gelatina sciolta e di coprirli poi tutti della stessa gelatina per sformare quindi lo stampo e mandarli in tavola tutti in un pezzo, che così faranno più bella mostra. In un pranzo di parecchie portate, io credo che questa dose potrebbe bastare anche per 10 persone, ma per star sul sicuro, meglio sarà di non servirla a più di 8.